vista. Ecco, benvenuto a tutti quanti, grazie di essere venuti alla nostra iniziativa del lunedì 1 febbraio. Iniziamo ecco con Johanna Angermayer, il suo nuovo romanzo questa serata, che mi fa anche piacere di poter ospitare qui a Trevi. Questa è la prima volta, vero, rispetto agli altri romanzi? Sì, perché ci siamo trovati tante volte nella nostra biblioteca. Questa volta lo facciamo a Trevi e penso che andremo avanti ancora un po' con queste esterne della biblioteca. Ma a noi fa piacere, insomma, è un'occasione per portare la biblioteca un po' fuori, per favorire gli incontri con le autrici, con gli autori. E anche questa sera, accanto a Johanna Angermayer, la cui produzione la vedete qui su questo tavolino, abbiamo raccolto i libri pubblicati in questi anni da signora Angermayer. Il filo conduttore è sempre comunque un taglio giallo, vero? Un racconto, ecco, con questa tipologia che non è così frequente negli scrittori altoatesini, è un po' una linea particolare, a me piace tantissimo, devo dire la verità, ecco, questo taglio che si presta forse anche al nostro territorio, no? Abbiamo un territorio di confine, abbiamo visto anche in altre regioni, in altre località in Italia, la zona di confine è una zona che ispira moltissimo il taglio giallo, il taglio poliziesco, taglio con degli intrighi. Mi viene in mente un autore residente a Trieste che ha avuto un successo strepitoso con il suo commissario Laurelli, tant'è vero che il CDF ha fatto tutta una serie di sceneggiati, e l'ambientazione proprio a Trieste con la tipica situazione di un territorio di confine che si presta anche a degli scambi e a delle situazioni non sempre chiare. Johanna Angermayer non dà un taglio forse così legato agli scambi internazionali, ma invece più orientata a degli scambi, a delle linee più umane, più psicologiche, no? Quindi è tutto da leggere, sono racconti anche brevi, i romanzi non sono, ecco, non sono lunghi, ma si leggono tutto d'un fiato. A noi fa piacere avere anche con noi appunto questa sera un'autrice donna che ci racconta le sue fantasie, come si ispira a questi racconti, qual è il bacino dove pesca le idee, ecco, questo ci piacerebbe sentirlo dire, e in questo percorso di conoscenza di Johanna Angermayer e del suo nuovo romanzo abbiamo Eugen Galasso che ci accompagna questa serata, ci spiegherà anche il suo punto di vista sul racconto giallo. E ringrazio anche l'associazione scrittori altoatesini, qui rappresentata dal presidente Franco Latino, che è qui con noi questa sera, e ringrazio anche altri scrittori che sono qui in sala, che ci accompagnano con i loro racconti, con i loro libri da tanto tempo e che creano sempre delle nuove occasioni anche per il nostro pubblico di leggere cose veramente interessanti. Grazie a tutti voi. E grazie, scusate, a Patrizio Sindaco che anche questa volta ci darà dei brividi con la sua voce professionale e leggerà alcuni passi di questo racconto. Grazie Patrizio. A voi la parola. Allora, così brevemente riprendendo anche quanto ha esposto la dottoressa Trevisan, io citerei forse altri due nomi, uno locale che è il dottor Gandini, il dottor Umberto Gandini, che si è cimentato in dei polizieschi interessanti che hanno peraltro una valenza molto diversa dal libro che presentiamo, ma comunque insomma in quest'ambito. E io aggiungo, così scandalizzando forse qualcuno, a proposito della realtà triestina, Magris, perché in Magris, soprattutto negli ultimi libri, c'è anche un plot che naturalmente non è, diciamo, prettamente giallo o thriller o come volete, ma diciamo si serve di questa, quantomeno di un marchingegno che può far pensare a ciò, per dire, appunto, per confermare quanto ho già detto. Poi ecco un altro aspetto cui tengo particolarmente, è un libro importante in quanto è già stato detto ma lo ripeto, è un punto di vista femminile, su un tema. Io non anticipo, voi sapete, di un giallo non si può mai narrare la storia, no? Perché è un peccato mortale, è un delitto, diciamo, assoluto. Però ecco, si può dire, perché poi è nel libro e lo trovate subito all'inizio, c'è la problematica della violenza sulle donne, e è un qualcosa che purtroppo, come altro, come la giornata della memoria, che è passata da 5 giorni, no? È spesso relegato in una giornata sola, mi sembra sia il 25 novembre, no? Quello della violenza? Sì, ecco. E quindi, vorrei dire, noi tendiamo così a celebrare, e va anche bene, ma dovremmo ricordarci che questo succede sempre. E non solo, l'analisi che tutto lo sviluppo del breve romanzo è molto importante anche da questo punto di vista. Io così mi sono permesso di parlare di giallo antropizzato, l'espressione è un pochino così controversa, ma diciamo è un reductio nel senso positivo ad hominem, ad molirem, in questo caso è una riconduzione alla persona, in questo caso soprattutto alla donna, ovviamente non solo, perché ecco un altro tema. Io devo premettere, non sono un appassionato lettore di gialli. Conosco l'opera omnia di Conan Doyle, conosco bene Agatha Christie, abbastanza bene Edgar Wallace, non leggo Maigret per scelta, proprio perché ci sono altre cose che, di Simenon, che sono più rilevanti a mio parere, ma ecco qui cioè ci perderemmo in una lunga disquisizione. Diciamo che il tema fondamentale è quello che vi ho detto, e anche il titolo, attenzione, è in realtà più che accettabile, perché Elisa, la protagonista, scompare rispetto alla famiglia, che è una famiglia diciamo un po' sui generis per le motivazioni economiche. Anche qui però non voglio anticipare molto, perché diciamo che è il tema della donna, o meglio insomma della ragazza, che si trova in una condizione difficile a livello di vita, a livello economico, e poi vedrete insomma che cosa avviene. Rispetto agli altri romanzi, questo anche è da dire, della nostra, possiamo dire tranquillamente, Luana Angermeyer, anche perché ha illustrato tutti i volumi della Latmark, è una pittrice di fama molto notevole, e è diciamo alla terza prova letteraria, come già ricordato, no? In Punto a capo e A capo, che erano dei racconti, già diciamo si accennava, si ventilava il tema giallo, e poi dirò ancora qualcosa, e poi in Delitto nel parco, che è del 2012, il primo volume era del 2011, quindi sono scritti anche in un lasso di tempo relativamente molto breve. Qui si approfondisce veramente la tematica gialla e quanto dicevo, cioè questa tematica che è un punto di vista femminile. Ci torno però sopra dopo la lettura. Nella stanza le denti di velluto blu lasciavano filtrare una luce sottile. Elisa, seduta al capezzale del nonno, stringeva la sua mano. L'uomo, gravemente malato, ogni tanto apriva gli occhi e la guardava. Voleva molto bene a quella ragazza dagli occhi neri e profondi. Dopo la morte della figlia Maria, lui e sua moglie Giulia si erano occupati della nipote. L'avevano cresciuta con amore e avevano provveduto a lei. Purtroppo Giulia soffriva di un male incurabile e aveva lasciato il marito da solo a crescere in Elisa. L'uomo pensava con tristezza che alla sua morte la nipote sarebbe rimasta sola. Elisa era molto giovane, aveva solo 18 anni. Chi si sarebbe preso cura di lei? La ragazza si accorse che il nonno la guardava, gli sorrise e gli chiese: «Vuoi bere un po' d'acqua?» L'uomo scosse il capo in segno di diniego. Strinse la mano della nipote con quella poca forza che le restava. Poi un velo nero calò sui suoi occhi. Improvvisamente la stretta si allentò e la sua mano diventò gelida nella mano di Elisa. La ragazza, incredula, si rese conto della morte del nonno. Pianse disperatamente, non riuscendo a staccarsi dal suo letto. La badante che accudiva l'uomo la trovò in lacrime, al buio. La donna cercò di consolarla e la fece uscire dalla stanza, da quella stanza dove regnava la morte. Le faceva pena quella ragazza, sapeva che ora era rimasta sola. Chi le sarebbe stato vicino a prendersi cura di lei? Gli zii, i suoi unici parenti, fratello e sorella, non erano mai venuti a trovarli. Avevano litigato con il padre per interesse e non si erano fatti più vedere. La badante avvertì per telefono i figli della morte del padre. Renato, lo zio di Elisa, arrivò immediatamente. Un uomo dallo sguardo freddo. Non era molto scosso per la morte del genitore. Era andato via da casa da ragazzo dopo un brutto litigio e non aveva più cercato. Ora era lì per vedere cosa gli aveva lasciato in eredità. Poco dopo arrivò anche il Pi, la sua sorella, la quale, dopo uno sguardo verso il padre e una lacrimuccia, si guardava intorno se c'era qualche oggetto di valore da portare via. La badante, vista la piega e come stavano andando le cose per aiutare Elisa, circondata da quegli squadri affamati, disse a tutti: «Non dovete toccare nulla. Il notaio leggerà il testamento e ognuno avrà ciò che gli spetta.» Renato disse sottovoce alla sorella: «Questa casa è molto grande. La venderemo, ne ricaveremo un bel gruzzolo e ce lo divideremo noi due. Elisa è solo una nipote.» Elvira rispose: «Sì, certamente.» I due fratelli parlavano solo di interessi invece di organizzare il funerale del padre. L'unica addolorata per la perdita del nonno era Elisa. Il funerale fu fatto con molta semplicità. Al ritorno verso casa, Renato, rivolgendosi a Elisa, gli disse: «Per il momento, fino a quando verrà venduta la casa del nonno, puoi ancora restare.» La ragazza lo guardò stupita e gli rispose: «Ma scusa, io poi dove vado ad abitare? Questi sono affari tuoi. Troverai una casa in affitto e un lavoro. Sei abbastanza grande per provvedere a te stessa.» Si allontanò, lasciando Elisa profondamente turbata. La ragazza non sospettava cosa l'attendeva. Gli zii non si erano mai interessati a lei. Figuriamoci ora che non c'era più il loro padre. Trascorsero 15 giorni dalla morte del nonno. Gli zii di Elisa furono chiamati dal notaio per l'apertura del testamento. L'uomo li fece accomodare nel suo studio, prese un cassetto con una busta, infuocò gli occhiali e, rivolgendosi verso i parenti, disse: «Queste sono le ultime volontà del signor Carlo Gasparini.» Cominciò la lettura del testamento. «Lascio la raccolta di francobolli a mio figlio Renato. Non lo meriterebbe, non si è mai fatto vedere in tutti questi anni. Lascio a mia figlia Elvira i gioielli di sua madre, perché erano volontà di mia moglie. Tutto il resto mobili e immobili, li lascio a mia nipote Elisa, che mi è sempre stata accanto e mi ha curato con tanto affetto durante la mia lunga malattia. E lascio alla mia governante la somma di 5.000 euro, perché è stata sempre molto paziente con me. Questa è la mia volontà, Carlo Gaspari. E Pira e Renato si alzarono di scatto dalla sedia. Renato gridò: non è possibile, i figli siamo noi, lei è solo una nipote. Il notaio con fermezza li accompagnò verso la porta dicendo: io ho solo eseguito le ultime volontà di vostro padre. Fuori in strada gli zii investirono Elisa con insulti, le dissero che aveva raggirato il nonno, ma che loro avrebbero impugnato il testamento. Elisa, ritornata a casa, si gettò sul letto esausta. Ora al dolore che sentiva per la perdita del nonno si aggiungeva tutto quell'astio inaspettato che le zii avevano verso di lei. Pianse, era disperata, pensava come sarebbe stata la sua vita da sola. Si addormentò, sfinita dal pianto. Ecco, come avete visto, sentito meglio dall'ottima lettura del nostro attore Patrizio Sindaco, e qui non credo sia mai abbastanza quello che si dice per appunto l'importanza della lettura recitativa per queste occasioni in cui ci si confronta su libri, si dialoga su appunto temi letterari o temi storici e altro, e naturalmente anche altro, anche tematiche scientifiche simili. Ecco, e come avete visto c'è anche quindi un nucleo di significato molto concreto e anche molto triste, se vogliamo, no? Questa brama dell'eredità è un tema che quantomeno direi da Plauto ad Aristofane, meglio a Balzac, così percorre moltissima letteratura, ma poi naturalmente anche la letteratura gialla. Inutile che io ricordi appunto Sir Arthur Conan Doyle, ossia tutti i romanzi e racconti del ciclo di Sherlock Holmes, o anche Agatha Christie, dove il tema diciamo dell'eredità è spesso il punto di partenza, no? Come sapete, di tutto. Ma qui credo che sia quasi inutile dirlo. Ecco, è diciamo il triste materialismo umano, io dico, no? E ci sono alcune espressioni in altre lingue, segnatamente in tedesco, wenn's um die Wurst geht, no? Se si tratta del salame, è un'espressione molto così cruda ma molto efficace, e ci fa pensare anche a Bertolt Brecht, no? Certes fressen, dann die Moral, no? Prima il mangiare, ma riferito più agli animali, e poi anzi non agli animali, dovremmo dire alle bestie, e poi invece la morale, no? E spesso, vabbè, qui non voglio entrare in polemica con nessuno, con nessuna teoria, ma credo che capiate senza che accenni oltre. Ecco, e diciamo il progresso o il processo ulteriore di questo romanzo, detto questo, quindi data questa inquadratura che è un punto di partenza naturale, oserei dire, di molti romanzi, racconti gialli, quindi una situazione di pericolo, una situazione comunque difficile anche proprio a livello di sopravvivenza che la protagonista deve affrontare. C'è però anche poi, e questo è direi in qualche modo non nuovo, perché era già anticipato nelle opere precedenti che ho citato prima, ma è ulteriormente espresso, ulteriormente sviluppato. Cioè a dire, direi, intanto ci sono elementi più duri, più hard dal punto di vista, diciamo, c'è della violenza nel libro, della violenza che è necessaria, non è assolutamente mai gratuita, questo è da dire, però ecco, c'è questo elemento hard che, volendo, ci ricorda appunto il hard boiled, no? Di certa letteratura americana gialla e non solo, direi, poliziesca, anche in senso ampio. Penso a Dashiell Hammett, penso al grandissimo Raymond Chandler, che peraltro da Hammett prende le mosse, era un allievo di Hammett anche per l'attività investigativa, tra l'altro, e un autore che francamente conosco meno, ma è interessante, molto discutibile, che era perché è scomparso anche egli, che era Mike Spillane. Diciamo, in questo quadro si colloca. Peraltro, ecco, un'autrice fortemente, è già stato detto, di frontiera, dove però, ecco, ci sono, li troverete nel libro, qualcosa verrà anche letto a riguardo, ci sono anche dei riferimenti a delle vie e a delle situazioni che potrebbero ricordarci la città in cui ci troviamo, Bolzano, ma sono soprattutto appunto questi riferimenti appunto di tipo urbanistico, non sono però così vincolanti, perché per esempio una via Dante la trovate in molte altre città, o ecco, l'altro cenno, poi vedrete che cosa si trova, ma è un libro appunto molto interessante dal punto di vista proprio, anche questo è già stato detto, dal punto di vista dell'analisi psicologica, che qui è più marcata e più forte che altrove, dico, nei libri precedenti della nostra autrice, e assume anche delle caratteristiche particolari. Il rapporto uomo-donna, ma non solo, io direi quasi una sorta di dialettica tra chi è in qualche modo detentore del potere, ma in realtà si tratta non di un libro politico, ecco, questo lo distingue assolutamente per esempio dal polar francese. Il polar è un gioco di parole, perché polar si riferisce al polo, al freddo, quindi che certi romanzi, certi racconti possono, o certi film polizieschi possono produrre, ma è riferito anche al poliziesco, ma con delle venature in genere fortemente politiche, appunto negli autori francesi. Penso a José Giovanni, che in realtà è corso, ma insomma è francese a tutti gli effetti, e del resto dico, i corsi potenti in Francia sono noti, no? Quantomeno uno, insomma, no? Ecco, e quindi va benissimo. Qui ecco, il tema politico magari no, ma il tema del potere economico, quindi concreto, questo c'è, e vedrete poi, leggendo il libro, ascoltando anche le letture, questa tematica la trovate fortemente. una vecchia casa di campagna, tre uomini discutevano animatamente. Uno di loro, rivolgendosi agli altri, disse nervosamente: «Che ne facciamo della ragazza? Ora sta meglio!» Pino, il più vecchio dei tre, rispose seccato, rivolgendosi a lui: «Non capisco perché l'hai portata qui. Per quale motivo sei tornato indietro dopo che ne avevi sparato? Preso il bottino, te ne dovevi andare!» «Non volevo spararle! Mi è partito il colpo, mi ero spaventato! Quando è scappata dall'altra stanza, poi mi è venuto il rimorso e sono tornato indietro per vedere se era ancora viva. Sono un ladro, non un assassino!» «L'ho guardata, non era grave, era così bella e giovane che ho pensato che una volta guarita ci poteva essere utile per il nostro lavoro.» Ridendo aggiunse: «Forse è anche vergine. Sai quanto ci può fruttare una ragazza così? Ah, non sei così stupido come pensavo», rispose Pino. Giacomo, l'altro fratello, intervenne seriamente dicendo: «Ragazzi, qui c'è poco da scherzare. Dobbiamo andarcene il più presto possibile, non siamo al sicuro. La ragazza sta abbastanza bene. La carichiamo sul pulmino e passiamo alla frontiera. Meglio aspettare ancora un paio di giorni. Non vorrei che si aggravi per strada», rispose Pino. Mentre i fratelli discutevano nella sua casa, Elvira non si dava pace. Si sentiva in colpa per essere stata così insensibile con la nipote. Continuava a pensare a lei per averla lasciata sola dopo il funerale del padre. La sognava e le chiedeva aiuto, e che lei gli chiedeva una mano, ma non riusciva ad afferrarla. Si svegliava agitatissima, malata di sudore. Giacomo era andato in paese ad acquistare le sigarette. Vide nella piazza gente in festa, tanti banchetti e molta confusione. Rientrò velocemente a casa e disse a Pino e Luigi: «Questo è il momento giusto per passare il confine. In poche ore saremo in Austria. Con tutta quella folla nessuno baderà a noi. Chiama Martina e fai preparare la svelta alle ragazze senza fare troppo chiasso. Partiamo immediatamente.» Velocemente tutti furono pronti e salirono sul pulmino con le loro valigie. Elisa venne fatta sedere accanto a Pino, che la coprì con una coperta. Varcarono il confine tranquillamente e si recarono in una vecchia casa che un loro amico gli aveva procurato. Quella sarebbe stata la nuova casa delle prostitute. Elisa, ancora debole, durante il viaggio si era addormentata. Quando si svegliò, si trovò in una stanza sconosciuta. Andò verso la finestra, guardò fuori e pensò: «Dove sono? Dove mi hanno portata? Perché mi tengono prigioniera? Cosa vogliono da me?» Sentì delle voci che provenivano dal piano di sotto. Aprì la porta della stanza e scese le scale. Si ritrovò in un grande salone con tanti divanetti rossi. Una decina di giovani donne ridevano e bevevano spumante. Come Pino la vide, le disse allegramente: «Vieni, Elisa, vieni a festeggiare con noi la nuova casa. Ti presento le tue amiche. Lavorerete insieme.» La ragazza, con un filo di voce, rispose: «Voglio tornare a casa mia. Lasciatemi andare via!» Un coro di risate da parte delle ragazze. Una di loro disse: «La piccola vuole andare a casa!» Un altro coro di risate. Martina, che era la più anziana del gruppo, disse vicino, la prese per un braccio dicendole: «Vieni, bevi un po' di spumante e non pensare a niente. Credimi, è meglio per te.» Improvvisamente Elisa, guardandosi intorno, si rese conto che era capitata in una casa di prostitute. Infuriata andò verso Pino gridando: «Io non sono una puttana! Non potete tenermi qui!» Con tutta calma l'uomo le rispose sorridendo: «Stai tranquilla, piccola. Vedrai che tutto andrà bene.» La giovane si avviò verso la porta, cercando di uscire. Pino D'Arancio Fuzzi la prese per un braccio, le dette due sonori cestoni dicendole: adesso basta ragazzina, farai quello che ti dico io, sono stufo dei tuoi pianisteri, ora stiamo festeggiando la nuova casa, poi io e te faremo un discorsetto serio. Elisa capì che si trovava in una brutta situazione e che le era impossibile fuggire. Grosse lacrime scesero sul suo bel viso. Il giorno seguente sentì delle risate di donne e uomini che provenivano dal piano di sotto, ma rimase nella sua stanza. Improvvisamente la porta si aprì, era Pino, e le disse: vieni con me, conoscerai un po' di gente. Non avere paura, vedrai, vedrai solo come si comportano le ragazze. Devi imparare a muoverti, ad essere disinvolta e succinta. La prese per un braccio, trascinandola verso le scale. Entrarono nel grande salone arredato a festa con palloncini colorati. Le ragazze erano vestite con abiti succinti e in atteggiamenti incomunicabili. Un uomo si avvicinò ad Elisa. Lei sentì un brivido di paura lungo la schiena. Pino intervenne con un sorriso: no, no, lei no, gli costerebbe troppo. Chiamò Martina dicendole: accompagna le signore dalle nostre amiche, fa che si diverta. Elisa, che le si era fermato il respiro, riprese fiato. La casa delle prostitute incominciava a riempirsi di clienti. I tre uomini erano soddisfatti che in così poco tempo avevano avuto buoni guadagni. Un sabato sera si presentò nel salone un uomo vestito di nero, molto elegante, di bell'aspetto. Giacomo gli andò incontro e gli chiese: in che possiamo servirla? Lui gli rispose che voleva qualcosa di particolare e che non gli interessava il prezzo. Giacomo pensò che era giunto il momento di usare Elisa. Chiamò Valentina e le chiese di preparare la ragazza. Poi, rivolgendosi verso il cliente, sorridendo, gli disse: dovrà essere paziente, è la prima volta per lei. Non si preoccupi, mi piacciono le donne che si ribellano, rispose l'uomo con uno strano sorriso. Giacomo lo accompagnò al piano di sopra, nella stanza di Elisa. Rivolgendosi verso di lei, raccomandò: sii carina con il signore. Uscendo, chiudendo la porta dietro di sé, se ne andò. La ragazza era terrorizzata, si sentiva in trappola. L'uomo la fissava con uno sguardo di ghiaccio, non le disse una parola. Incominciò a spogliarsi lentamente, mise i vestiti ben legati su una sedia, aprì una valigetta, prese un bacio e come un felino balzò sulla povera ragazza e le legò i polsi al letto. Elisa, impaurita, cercò di ribellarsi a quella furia, gridò disperata chiedendo pietà e incominciò una violenza animalesca. Si udivano nella stanza silenziosa di urla, di dolore. L'uomo impietriva su di lei, preso dalla sua libidine. Le strinse le mani attorno al collo. Elisa sentì mancare l'aria. Voleva gridare, ma lui ripetutamente le sputò qualcosa sul viso. La vista le si annebbiò. Vide un'ombra scura. Pensò: è la morte. Poi perse i sensi. L'animale continuava a inveire contro di lei. Quando finì la sua bestiale violenza e vide il corpo esanime della ragazza, si alzò, la guardò attentamente senza un briciolo di umanità, le slegò i polsi e mise il braccio nella valigetta. Lentamente incominciò a vestirsi. Si guardò allo specchio, si pettinò i capelli lisci e biondi, si aggiustò il nodo della cravatta, diede un ultimo sguardo nella stanza, si accese una sigaretta e, uscendo, se ne andò che vedevano poi tra le sue spalle. Scese le scale senza farsi notare e di soppiatto uscì da quella casa. Salì in macchina e velocemente si allontanò. Dopo circa 2 ore, Giacomo, che non aveva visto scendere l'uomo, decise di salire a vedere. Il tempo a sua disposizione era scaduto. Aprì la porta della stanza, vide sul letto il corpo martoriato di Elisa, spaventato che si avvicinò. La guardò, la scosse, la ragazza rimase immobile. Gridò: "Maledetto assassino!" Era nel panico, non sapeva cosa fare. Rimase a lungo nella stanza a pensare, poi uscì, chiudendo la porta a chiave, e scese nel salone. Cercò Luigi e Pino, disse loro: "Abbiamo un grosso problema da risolvere." "Che cosa è accaduto?" chiese Pino, vedendo il fratello preoccupato. "Quel pazzo maniaco ha ucciso Elisa ed è fuggito." "Cosa? Dov'è adesso la ragazza?" "L'ho chiusa nella sua stanza. Dobbiamo decidere al più presto cosa fare del suo corpo, senza che nessuno della ragazza si accorga di ciò che è accaduto." "Diremo loro che è riuscita a fuggire." "Povera Elisa, mi dispiace molto per la fine che ha fatto." "Mi piaceva quella ragazza", disse Luigi. Intervenne Pino. "Bisogna pensare a come farla sparire al più presto. La dobbiamo seppellire in qualche posto, lontano da qui. Siamo arrivati da poco in Austria. Se la polizia la trova, arriveranno in breve alla nostra casa di prostitute." Giacomo, che era stato silenzioso fino a quel momento, disse: "Io ho un'idea. Tu, Luigi, l'hai portata da noi e tu ci libererai di lei." "Io?" rispose il giovane sorpreso. "Sì, proprio tu. La caricherai in macchina e la porterai in Italia. La seppellirai all'interno di qualche posto. Se la troveranno, penseranno che il corpo è sempre stato lì e sarà difficile che la polizia italiana arrivi a noi." Il giovane in momento rispose: "Ma se mi ferma la polizia, mi arresteranno per omicidio." "Parti con la macchina ora, che è buio, senza correre, tranquillo, e vedrai che nessuno ti crederà", rispose Giacomo. Luigi sistemò il corpo di Elisa nel portabagaglio della macchina, avvolto in una coperta. Dopo alcune ore di viaggio arrivò in Italia, senza nessun incontro. Si trovò nel Bresciano. In una stradina vide un moschetto di betulle. Si fermò, si guardò intorno, era deserto. Gli sembrò il posto ideale per seppellire il corpo di Elisa. Prese dalla macchina la pala e cominciò a scavare una buca nei pressi di un albero. Tremava dalla paura. Ogni tanto si guardava intorno che non arrivasse qualcuno. Finito di scavare, aprì il portabagagli. Sollevò il corpo della morta per seppellirlo nella fossa. Brontava di sudore e si sentiva male. Il cuore gli batteva forte e le mani gli tremavano. Improvvisamente il corpo si mosse. Una mano lo afferrò. Luigi, terrorizzato dalla paura, sentì una forte ditta al petto. Parlò, colpito da un infarto, e cadde a terra senza vita. Elisa si risvegliò dall'effetto del narcotico. Spaventata, si guardò intorno. Non capiva dove si trovasse. Si accorse che era nuda, piena di lividi, avvolta in una coperta. Piano piano incominciò a ricordare ciò che le era accaduto. Si alzò e vide il corpo di Luigi accanto alla buca. Non capì cosa era successo alla giovane, però intuì che quella fossa era stata scavata per lei. Ragionò qualche minuto, poi prese i vestiti di Luigi, li indossò, trovò nelle tasche dei jeans del denaro, spinse il corpo del giovane nella fossa e con la pala lo ricoprì di terra. Scossa, salì sulla macchina di Luigi. Accese il motore e si allontanò. Le mani tremavano sul volante le lacrime scendevano sul suo viso. Non sapeva dove si trovava. Uscì dalla stradina del bosco e si ritrovò sulla strada asfaltata. Anche perché c'è un'altra tranche di lettura, e ringraziamo ancora l'amico Patrizio Sindaco, vorrei anche poi dare molto spazio all'autrice, a Luana, così ricordando solo alcuni temi che qui trovate. Il rapimento della ragazza, e questo è un tema clou, diciamo, per esempio nel cosiddetto Divino Marchese, nel Marchese de Sade, lo trovate, ma lì ecco c'è un elemento naturalmente di compiacimento, no? Di tipo appunto sadiano più che sadico. Oppure diciamo appunto i romanzi citati, i racconti di Edgar Wallace, il ratto della ragazza è un tema classico, però là ha una componente quasi di routine, qui no, qui ha un'importanza fondamentale, e c'è una vera direi compartecipazione, direi una forma di Mitleid schopenhaueriano, di compassione nel senso di latino etimologico del pati cum, del patire con, ed è un punto di vista evidentemente fortemente femminile, giustamente. Ecco, questo un altro elemento da non sottovalutare, ecco, questo dico questo in negativo, quello che non c'è, io aggiungo per fortuna, non c'è tutta quella quella riflessione letteraria quasi di tipo autoptico che trovate per esempio in una scrittrice probabilmente interessante, ma io non mi fa orrore leggerla, che è Patricia Cornwell, no? Con tutto quel compiacimento appunto per l'analisi del corpo, eccetera, l'anatomopatologia che trovate, credo anche, ovviamente non li guardo, questi CSI, no? Questi telefilm dove questo elemento è molto forte, o anche film che non conosco, quindi non cito. C'è però un'altra cosa, e questo qui andiamo verso il finale, che sentirete, non ovviamente il finale per non togliere la sorpresa. Ecco, non c'è, e questo è molto importante, non c'è la ricerca dell'assassino, o meglio, ecco, qualcosa avete già sentito, ma non è evidentemente quello che poi conclude il romanzo. E in genere c'è o la ricerca dell'assassino in forma di detection, e allora è appunto Conan Doyle con Sherlock Holmes, o è Agatha Christie con Miss Marple o con Monsieur Poirot, ma ecco lì ha un senso ben preciso, no? O probabilmente Maigret di Simenon, o altri libri come anche quello che ha citato prima la dottoressa. Molti, diciamo, ci sono vari autori, anche italiani, che coltivano questo, diciamo, genere letterario molto importante. Io vorrei ricordare un nome che non si ricorda spesso, che è di qualche anno fa, un autore scomparso da tempo, che era italo-russo, italo, anche, sì, anche italo-ucraino, mi sembra, per meglio dire, che era Giorgio Scerbanenko. Ecco, ma al di là di questi, ecco, il tema fondamentale qui non è la ricerca dell'assassino, è altro, cioè la vicenda nei suoi sviluppi psicologici, nei suoi anfratti, vorrei dire, anche molto interessanti, e tutto questo ci riporta a un nome che secondo me è il più grande in assoluto, non propriamente nella letteratura gialla, poliziesca o come vogliamo chiamarla, thriller, eccetera, ma nel cinema prima di tutto e anche nella scelta di determinati romanzi, racconti, no? Ossia Sir Alfred Hitchcock, che è per me assolutamente il top, e non ecco, anche presentazioni di moltissimi libri Alfred Hitchcock present, no? Anche nei libri, nei racconti, nei vari romanzi, eccetera. Ecco, questo è da proprio sottolineare, questo elemento. Qui non ho molta consuetudine, ma mi sembra invece che siano cose abbastanza interessanti a livello televisivo, il famoso Tenente Colombo. No, ecco, anche qui la vicenda presenta già l'assassino, poi ecco qui, e sempre non voglio anticipare perché sennò giustamente mi impicchereste, sarebbe quasi poco, ma direi veramente, ecco, c'è un rovesciamento, questo sì, magari è da accennare. Poi, leggendo il libro, non le letture proposte, perché non si può, troverete questo, perché c'è un qualcosa che, appunto, non anticipo, ma direi quasi un rovesciamento della dialettica iniziale. Lasciamolo così. Marisa si sentiva più tranquilla. Aveva trovato lavoro in paese come commessa in un negozio di scarpe. Era contenta di non essere lei, di essere lei e il suo bambino, di non essere troppo di peso ai suoi genitori. Una sera, mentre rientrava dal lavoro, stava attraversando un giardinetto per accorciare la strada per raggiungere la sua casa. Improvvisamente si trovò di fronte Luis. La donna lo guardò spaventata. Balbettò: come mai sei qui? Le gambe le tremavano dalla paura. Luis le sorrise e le chiese: come sta il bambino? Bene, è tranquillo, sereno. Mi fa piacere. Anche perché, povero piccolo, tra poco diventerà orfano di madre. La prese per il collo. Non le diede neppure il tempo di gridare e con freddezza la strangolò. Sentì arrivare un gruppo di giovani ubriachi. Spinse il corpo sotto un cespuglio e si allontanò in fretta. Quando fu al sicuro, si accese una sigaretta e pensò: credevi veramente di andartene così, senza essere punita? Non si fanno queste cose a Luis e a Annalisa. Ora devo tornare immediatamente in città. Non mi deve vedere nessuno. Sali in macchina e riparti a gran velocità per Roma. Lungo il tragitto si disse: i carabinieri mi chiameranno di certo per comunicarmi la morte di mia moglie. Dovrò avere i nervi molto saldi. Nessuno mi può incolpare per la sua morte. Quando arrivò a Roma, immediatamente si recò nel suo solito bar a giocare a biliardo con gli amici. Il suo amico Fabio, quando lo vide, gli chiese: come mai così tardi questa sera? Luis gli rispose mentendo: come? Non mi hai visto nell'altra sala? Stavo giocando alle slot machine. È più di un'ora che sono qui. Fece in modo di farsi notare anche dal cameriere. Rientrò a casa soddisfatto di come si erano risolte le cose. Tranquillamente cercò nel frigo qualcosa da mangiare. Il pensiero di Marisa era lontano. Nessun rimorso. Si distese sul letto. Non riusciva a prendere sonno. Pensò ad Elisa. Quella ragazza gli piaceva molto. Sentiva verso di lei un'attrazione fisica, un sentimento che non aveva mai provato per una donna. Si disse: adesso sono libero, posso farmi avanti. Mi sembra che non le sono indifferente. Mi sorride, ha accettato che la portassi a cena. Se non era per quella stupida della sua amica, forse si sarebbe anche fatta baciare. Si addormentò con quel desiderio. Il giornale del giorno seguente, in prima pagina, messa in evidenza, riportava la notizia della morte di Marisa Foglier. Elisa, leggendo quell'amaro articolo di cronaca, si sentì male e stava per svenire. Beve un bicchiere d'acqua per riprendersi. Pensò: quello maledetto l'ha uccisa, si è vendicato. Ora basta, Luis, la polizia finalmente ti incastrerà. Luis, infatti, fu portato in caserma, come lui aveva previsto, per comunicargli la morte della moglie. Fu interrogato a lungo dal commissario Orlandi, ma lui dichiarò di non essersi mai mosso da Roma, di aver pranzato da solo perché sua moglie si trovava al suo paese dai genitori e di aver trascorso la serata in compagnia di amici a giocare a biliardo fino a mezzanotte. Furono interrogati i testimoni, i quali confermarono il suo alibi. Lo dovettero rilasciare. Non c'era nessuna prova che lo accusasse. Elisa, piena di rabbia, era certa che era stato lui a uccidere Marisa. Pensava: come avrà fatto a coprire tutte le prove? È un uomo astuto, eppure qualche errore ci deve essere. Non esiste il delitto perfetto. Elisa e Lorella stavano passeggiando per le vie del centro. Ad un tratto videro Luis. L'uomo passò accanto a loro come se non le conoscesse. Le due ragazze si guardarono stupite. Lorella disse all'amica: non è possibile che non ci abbia viste. Adesso lo raggiungo. Voglio sapere perché ci ha ignorate. Allungò il passo e si mise accanto all'uomo, il quale la guardò con curiosità. Lorella lo salutò. Ciao, Luis! Non si saluta? L'uomo le rispose sorridendo: signorina, non la conosco. Si sta sicuramente sbagliando con mio fratello gemello. Non è la prima volta che mi accade. Lei è una sua amica? Lorella, in imbarazzo, rispose: sì, mi scusi se l'ho disturbata, ma lei è proprio identico al suo fratello. Lo salutò e raggiunse Elisa, che le domandò: che ti ha detto? Ma che figura! Non era Luis, lo sapevi che aveva un fratello gemello? L'amica lo guardò incredulo ed esclamò: un gemello? Questa sì che è proprio una novità. Elisa mi chiese: chi dei due è quello che viene al ristorante la sera? Lorella la vide molto seria e le sorrise dicendole: non parla di un problema. Fai una sera uno, una sera l'altro. Elisa non aveva voglia di scherzare. L'amica non poteva capire quello che lei si stava chiedendo. Chi dei due mi ha violentata? Chi è l'assassino? Buonasera a tutti. Questo romanzo che io ho scritto diciamo che una pura fantasia, chiaro, no? Ma insomma, sono abbastanza soddisfatta, soprattutto come legge il nostro attore, ecco, il professor Galasso, che sempre mi presenta e mi fa molto piacere, perché è una persona proprio molto che mi aiuta, ecco. Bene, io non so cosa dire, perché sinceramente posso solo ringraziare tutti quanti e ripasso la parola al dottor Galasso. È difficile, io appunto so quando tocca, diciamo, presentare o parlare di proprie cose, riesce sempre, è difficile, quindi alla piena solidarietà anche in questo caso all'amica Luana Angramaio. È effettivamente imbarazzante, comunque c'è un momento di diciamo, se volete, shock, e siamo un po' anche in argomento. No, io l'ultima cosa, ma più o meno credo si sia capito da quanto ho detto prima, c'è la capacità di usare sempre appunto una suspense che viene prodotta, diciamo, da un climax, quindi da un aumento di tensione, se volete un crescendo, per dirlo musicalmente, e poi naturalmente c'è un anticlimax, ovvero sia un decrescendo, sempre per dirla in termini musicali, fino, e questo appunto non possiamo dirlo, svelarlo, non può essere letto chiaramente, ma dovrebbe essere e dovrà essere letto da voi, ecco, il finale, dove c'è anche un elemento, diciamo, a sorpresa, tra virgolette, perché il termine sorpresa è sempre un po' problematico. La suspense credo sia abbastanza comprensibile come concetto. L'effetto sorpresa, ecco, è un qualcosa che in genere rischia di non riuscire, qui è assolutamente invece riuscito. Io non mi dilungo, perché credo, così vi ho tediato già abbastanza, insomma. Allora io ringrazio il dottor Galasso, la dottoressa Trevisan e soprattutto anche il nostro attore, sindaco. Ringrazio tutti i presenti per aver avuto la pazienza e buona serata.